Pietro. Azzeccato. K. Antonello. Hai visto, Carle? Tira che ti gira, c'è un cugino. Infatti, a volte il mondo è piccolo, ho visto, per radio si incontrano anche i parenti. Si conferma. Comunque l'officina Pretti, quella di Predagneta, ti stavo dicendo, sono preso vicino al fratello dell'ingegner Pretti, quello. Esattamente, sono quella famiglia. Sono i fratelli di Carlo, è mio cugino in primo grado, la mamma, sorella di mio padre, fatti il conto. Enzo, io conosco Pretti. Io ne conosco tanti Pretti, c'è Don Gavino, Don Giuliano, Don Marco, Don Mario, tutti Pretti sono. Suonato. Don Gavino è quello di Santa Maria di Pisa che è pulito d'un riso. Allora, Don Gavino sì. Perché ci vediamo di andare a San Gavino? È un ben gamba quel prete, è un ben gamba, è molto umano, è scherza, è alla mano, se devi dire qualche parola ce la dici. Io lo so, i migliori erano lui e Don Prumas, il parroco di Stintino. C'ha 13 figli. Attento, fa parte sempre della famiglia Pretti, eh. Infatti già non mi fa famiglia. Tutti i Pretti sono, attento che tutti questi Pretti che hanno figli spazi da tutte le parti. Ma io non sono tanto per la chiesa. Comunque Natalì, io sono il figlio di Lidia. Lidia? Lidia. In cappa. E ci dobbiamo trovare uno di questi giù. Almeno un caffè ce lo prendiamo assieme. Lo organizziamo volentieri. Ieri mi sono incontrato con Antonello Barracuda, già lo conoscevo di vista comunque, però un conto è conoscerlo così e un conto sapere chi è, poi quando li conosci per radio e poi di persona è tutta un'altra storia. Ma tu sei nativo di Sassari? No, io sono bonorrese doc, sono l'unico della mia famiglia che sono nato a Bonorva, tutti i miei fratelli, quelli più grandi di me, tutti nati a Sassari, perché mia madre era di Sassari, mia nonna materna, tutti di Sassari, io ho fatto anche l'infanzia a Sassari, però sono nato a Bonorva. Ah, non c'è vissuto a Bonorva, allora quando lavoravo io c'avevo Bonorva, Posto Maggiore, padre, madre, Mara, poi c'ero Cosciolina, Semestre, tutta quella zona facevo, Tiesi. La conosco bene, io ci ho vissuto sino ai 20 anni a Bonorva, sono nato e ho fatto tutte le scuole là. Bello, bello. Bestemmiamo un po' d'inverno, ti ne avrei dovuto anche solo buca, mamma mia, per carità, guarda. Vabbè, però bella zona, bella zona. Mi divertivo tantissimo, si lavorava bene, mi divertivo tantissimo, c'era molto spazio, va bene, vai già. Noi c'avevamo il negozio a Bonorva. Sì, e noi dovevamo farci i panini. Sì, all'entrata di Bonorva sulla sinistra. A me sempre i carabinieri di Bonorva mi fermavano, gatto, se con me ce l'avevano. E si conferma, di fronte alla caserma dei carabinieri. Sì, e venne Bettini Boni, buro allora, ti parlo di tanti anni fa. Belle commesse, molto gentili. Ce l'avevamo anche a Tiesi il negozio, Cla. Sì, a Tiesi, certo. A Tiesi lo stesso, in piazza, al corso. Ex cinema di Tiesi era quello dove avevamo il negozio, poi l'abbiamo chiusi tutti e due. Sì, è proprio all'incrocio dove c'è la rotonda che si fa per andare a Romana. Esatto, che poi scendi giù c'è la strada per andare verso Cagliari, eccetera, eccetera. Ci conferma, c'è quel ponticello, proprio di fronte a quel ponticello. Sì, e io andavo spesso lì. E beh, facevamo i panini, la mattina ci fermavamo, panini. Però a mezza mattinata, per notare poi a spostarci, ce li facevamo la mattina presto, capito? Non lo aprivamo presto perché andavano tutti lì, gli operai, tutti, a fare panini, a prendere la roba da mangiare. KK, avanti Carlo. Benemera, comunque adesso lì la polizia non si ferma più perché stanno facendo lo svincolo nuovo al bivio di Bonorva, lì erano sempre o con l'autovelox da una parte polizia stradale, dall'altra i carabinieri, invece adesso gli hanno spianato tutto con le ruspe, non si fermano più. Dove? Il bivio di Bonorva lo stanno facendo nuovo, stanno eliminando l'incrocio a raso sulla 131. Da tanto non ci va, da tanto. Per me la Porta Maggiore, forse la prossima settimana trovare un amico, un ex collega, Marco Fabda, non so se lo conosci, Marcolino, vabbè già grandetto, che me deve dare appunto un po' di carne per Natale. Allevatori sono i Fabda, quelli di Pozzo Maggiore? Sì, c'hanno cavalli, c'hanno di tutto, sì, il nipote praticamente, il nipote lavorava con me, proprio in squadra con me, adesso lavora ancora, adesso è per lì, lavora ancora la zona maggiore, padre, ha preso il mio posto, non sono andato via. Prima ero io responsabile, adesso è lui. E ci siamo sentiti da poco, e mi ha detto prima di Natale ci vediamo così ti do un po' di carne per le feste, devo andare a prendermela. Già è roba buona là in quella zona, pascoli buoni, Bonorva, Pozzo Maggiore, Tiesi, quella zona lì, salsicce anche molto buone si fanno, eh. Io andavo a Pozzo Maggiore a prendere Nurcara, il formaggio. Buona lì due. Nurcara, sì, la V. Buono, assaggiato. Fermo, conosco quel formaggio, molto buono. Io sono entrato anche dentro, tutto, ho visto dove l'ho fatto. Sei andato lì al caseificio? Sì, lì andavo a prendere il formaggio. Buono, poi sono puliti, molto... Sì, e poi io... quella zona mi hanno spostato, ho girato tutto, mamma mia. Mi hanno spostato la Nulvi, Tergo, Burti, Sedini, la Erro, Martis, tutta quella zona lì, Eugiro, sino arrivare a Eugiro. Poi da lì a scendere, Osilo, Comessere, Santa Vittoria, San Lorenzo, Sennori, eravamo già alla playa, Santa Maria Covina, Svalegoria, io, Sant'Antonio mio. Arrivati di chilometri alla via, e se ero io, mi ti mandava in casino Montebello ogni volta, via. Quando lì, una volta, all'ora di pranzo, all'ora di andarmene verso l'una, metterci da fare un viaggio a Cagliari urgente. Devi andare alla costa, sulla bivio Santa Vendracce, a prendere un frigorifero nuovo, che è arrivato e lo dobbiamo piazzare a Stintino. Sono arrivato da lì, sono arrivato alle 7 in negozio e mi metto adesso porta la Stintino. Cosa? Io sono con sacco voce, cioè sto facendo da Cagliari, non è che posso. Vai 5 minuti e poi siamo stati sino all'una di notte, piazzando, facendo, spostando scaffali, Lo so già, non lo dire a me, io mi sedevo in macchina alle 6 del mattino, mi fermavo a Marrita a prendere il caffè e già squillava il telefono. Marti operativo? Sì. Allora, alla fine, cioè, ti scivo a Palau, fate il conto. Dalle 6 del mattino già io ero all'Ande dei Caraibi, quindi lasciamo perdere, ci voglio più tornare in quei momenti, guarda, perché veramente, ma non tanto il periodo estivo, perché a volte ti faceva anche piacere, uscivi presto, al fresco, il problema era a rientrare all'ora di punta, alle 2, con un caldo 40 gradi, o d'inverno, neve, ghiaccio, gelo, mamma mia, vai Carlo. Break, anti break, avanti. Già. Sì, sono un attimino. Ti ho visto stamattina a Clavia, Carlo Felice, sono andato al dentista. Ma è morto? Sì, ma tu non hai sofferto con i primi perni, quando ti hanno messo i perni, i primi giorni, o ti hai fatto il carico immediato? No, io ho aspettato. Diciamo che un po' ti hanno fatto dei punti, eccetera, i punti che ti hanno messo un po' di fastidio lo danno, tirano, fanno, ma non è che sia una cosa, dolori forti non ne avevo. Non dolori forti, ma fastidioso. Ma mi ha martoriato, mi ha martoriato. Sono pure un freddo, poi c'è freddo. Vabbè, dai, giusto così. Ti stavo chiamando, ma poi tu sei solo le 11 meno 10, ho appuntamento alle 11. E non faceva. Cioè non facevo in tempo altrimenti. Vabbè, niente, dai, avanti a Carlo, riprendi Carlo. Riprendo per dirvi che me ne vado in QRX perché devo preparare la cena, comunque rimango in ascolto e nel caso poi intervengo tra una decina di minuti che mi devo sporcare le mani di farina. La pizza stai facendo. Ok, dai, anch'io, insomma, a pranzo non ho mangiato niente, ho fame, mi sto mangiando qualcosina di fresco, perché roba calda non le posso mangiare. Dai, rimango anche in ascolto, dai. Te l'ho detto cosa mangiare, crema di funghi, che buonissima. No, vabbè, sto mangiando la mozzarella, però piano, te la pezzettini piccolini, poi un budino, roba fresca, gelato, roba così, ma te devi mangiare. Ehi, vabbè, già passa. Devi mangiare brodino, perché tu sei cuoco uomo. Sì, si è fatto l'intervento, qua, sì, sì, durato un'ora. Minchia, ma vedi i punti c'è? Sì, sono pieno. Sono pieno, fatti il conto, mi ha messo 4 impianti. Vabbè, mangia roba fresca, roba liquida, non roba calda, eh. Rosso, fatti dopo, poi mi devo lavare bene col colluttorio, devo stare attento, non ci deve essere roba da mangiare attaccata. Vabbè, dai, rimango in ascolto, continuo a mangiarmi la mozzarella, c'ho fame, c'ho lo stomaco. Giacomo, c'è un po' di fame. Ma la mozzarella è solida, non le dovresti mangiare roba solida. Brodino, perché lui è cuocomane. No, roba calda niente, già roba fresca, capito, roba fresca. No, non roba piccante, va bene il formaggio, gelato, così, roba così, budino. Mi ho fatto il budino, senta, arrangiati. No. Sì. Dice Maria, infatti un passato di verdura. Lo fai raffreddare e non c'è bisogno di mangiarlo caldo. La roba fresca, se devo dire roba fresca tipo gelato, no, non c'è la bocca in frigo, non le mangio di passato di verdura io. Adesso mangio queste cose qua, dai, giusto per riempirmi lo stomaco. Perché poi stavolta devo prendere anche l'antibiotico. E poi più tardi mi prendo anche un altro antidolorifico. Se no grande mumari. La roba fresca fresca è il marmo, ti fai una crema di marmo. Una massica di due, grazie. Dai, piano piano, sì, un bel gelato quello in vaschetta, però non cornetto, gelato in vaschetta, ti puoi mangiare. Ok, un frullato di banana, ti piace la frutta, te, frullato di banana, queste cose così, con di frutta fresco. Avanti Carlo. Sono rientrato io. Mi ha fatto bianco, che è andato a preparare la cena. Cla, questo che posso mangiare, mangio, purtroppo. Siccome sono tutto pieno di punti in bocca, no? E mi ha preso tutta la gengiva, perché purtroppo sono scarso di ossa, ho capito? Allora, dovuto aprire la gengiva per trovare, per cercare l'osso, il punto più buono. Sì. Ho fatto anche Anna con l'operazione lì. È un casino, eh. Va bene, dai, vai a pappare. In bocca al lupo, piano piano, già ti riprendi, vai Robert. Ehi, scusate, sono assentato qualche minuto. Allora, sono sentito Luca, ciao Luca, c'è Claudio, ciao di nuovo a te, ciao Carlo, quel che è rimasto qua su questo canale. Natalino e Gianni. Ah, ci sono ancora loro, dai. Ok, non ne dico, non è entrato nessuno oltre a quelli che c'erano prima. Dai, chi tocca? Avanti Gianni, dai. Ehi, allora. Ehi Robert, stavamo parlando appunto dell'intervento di Luca, ma già sono cose veloci, dai. Sì, io non ho sofferto nulla lui, niente, proprio nulla. Luca! È andato a mangiare, lascialo mangiare. Ma papà è andato. Io non sai cosa mi compravo, la crema di funghi, e boh che è buona, la facevo raffreddare e quella la mangiavo volentieri. Che buona sì la crema di funghi, stai scherzando? Buonissima, va bene. Gianfranco è che è sparito, non so dove è andato. Attento Gianfri, è andato a chiudere i sportelloni, se non si è chiuso le dita. Vabbè. Che cosa? No, stavo pensando a Gianfranco, ha chiamato, non ha risposto. Ho detto se non si è chiuso le dita con i sportelloni. Davvero? Dai, aiuto, fate girare, Baro, se no mi drommo e sono tutto. Avanti, Natalino, cuoco, ma ne riprendi. Dove? cenando. Mi sto ascoltando, però sto cenando, Claudio. Mi prendo tra un po'. Cosa hai detto? No, c'è un gatto. Il picchio. Vi picchio, lo già detto, il picchio. Chi picchio, a Uccialugane la via. Ah, penso. Andava. E come stai cucinando così presto la taglia? Questo gli sta parlando a bagliarlo del fuoco. Perché mi devo fare l'insulina, già lo sai. E sto mangiando presto. Capito? A 84 ce l'avevo la glicemia. E non va bene. Cioè va bene, anche troppo bassa. Io ci metterei la firma per la così. Io ce l'ho sempre alta la mattina, cazzo. In nessuna maniera vuole abbassare. E vabbè, ma sono colpa mia anche, perché questo periodo sto mangiando. Sono nervoso, sto mangiando. Io sono già arrivata a 64 kg. Tutti hanno, perché 62 cosa 69? Sì. 64 ne ho pesato. Oggi. Tu pensa, ne pesavo 52 e adesso sono arrivato a 64. Ah, mi blocco così. Ehi, va già, va bene là adesso. E prima perché non stavi bene, Natalie, un po' deperito. Un po' molto. Io quando sono riuscito a respirare come tiro, ultimamente più. Uia, una gabbi bassa. Io avevo dimagrito un casino all'ospedale, sembrava una larva. Uia, cioè, mi ci vedevano le ossa. E quando mi sedevo mi faceva male dietro, perché mi toccavano le ossa come ti mi busavo. Tutti i muscoli afflosciati, pacca di dai, non voglio più. Se no io, tutta cruciupido. Ma poi mi sono rimesso a posto, la verità, non mi ha lasciato nessun segno. A me la dottoressa mi aveva detto a 62, oggi non ho potuto fare la visita perché dovevo andare via e devo andare dopodomani da Pangualla. E com'è questa cosa? Dagli appuntamenti poi si dice. E dovevo andare via. Ti salve su stesso. E allora ne hanno preso un altro appuntamento, le infermiere. Lì sembra il Palazzo Rosa. Sì. Ma tu entri dalla via Principessa Maria alla fine lì? Eia! Mi pare che ando pure io, mi posso chiamare dottore, perché non è possibile. Sempre con questa storia di mandare l'email, se tu devi chiedergli come fare per abbassare la glicemia la mattina, che quella della notte sale sempre, devo stare a scriverlo nell'email. Ma stai scherzando? Ma io voglio farmi visitare, no? Fare i Infatti, già. Dopo mi serve anche il foglio, come mi stanno curando lì, tutto quanto, perché lo devo presentare, dei documenti che devo presentare il prossimo anno per la pensione. E figurati, vai c'è un bandito dottore, vai, che almeno lì lo trovi, non è roba di me, no, lì c'è la visita e buca. Dice che lì funziona così adesso, che fanno tutte le mail e poi se per caso dei casi vede che la cosa è urgente lo decide lui, ma se la mille luce. E infatti. Ma. Vabbè, scusate, avanti Claudio. No, continuate. Non so se. Robè, ci sei? Che sto smontando un microfono. Voglio vedere come ha fatto dentro questo microfono. Ehi, aspetta, vediamo se Gianfranco è rientrato. Attenzione Gianfranco, avanti. Ci sono, ma sono fuori che sto facendo delle verifiche. Che cosa hai detto che avevi schiacciato i ditti dal portellone? No, quelli avevo chiuso da prima, ero controllo video, ho capito, perché ogni tanto vanno puliti e quindi bisogna vederci anche di notte, perché gli infrarossi si portano dietro molti ragni, chissà perché. Ecco, sono andato a proposito di faretti, ne ho preso uno l'altro giorno alla Lidl, bello, con un faretto da 20 watt, col crepuscolare e sensore di movimento, bello, proprio fatto bene veramente, 19,90, 20 euro diciamo. Scemo ne ho preso uno solo, ce n'era un cassone pieno, sono andato già a prenderlo, nulla, neanche uno ne è rimasto. Dall'altra parte sono andato a quello Lidl, quello giù a giù a, dove c'è, come si chiama, la piazzetta, allora, quello lì idem, tutti venduti, cacchio, ho detto a ruba sono andati, perché sono veramente fatti bene, costruiti in, tutti in alluminio, il vetro non in plastica, nel senso in cristallo, eccetera eccetera, fatti veramente bene, a 20 euro erano regalati. Sì, dipende da come sono poi. Va bene, devo fare l'altro giro perché è molto, c'è freddo fuori, c'è un buio a pesta. Vediti le luci. Ci sono, è tutto automatico, qua quando passi si accende e viene registrato pure. Ah, bene, bene, bene. Così almeno non risparmi anche perché non stanno sempre accesi. No, no, sono tutte solari, energia solare. Tutto all'ultimo sicchio, va. Come al solito. A me queste cose piacciono. E quindi l'ultimo grido c'è. Molti, adesso c'ho anche il controllo focale, figurati. Basta parlare, si accende qua, si spegne là. E tutto sempre sperimentare. Però beh, noi dobbiamo sempre finire quella cosa. Che da testare, fare, insomma, ce n'è. L'hai visto il mio dove il campanello? Non ci ho fatto caso. A fianco al cancello c'è il campanello, la piastra, no, certo. Ogni anch'io ce l'ho così. Ogni volta che mi avvicino c'è cuocuomane. Ma non è che ho sbagliato il codice, no? Sicuramente qualcuno che ti ha messo mano di notte non te ne sei accorto. Sì, Gianfra, quella roba prontissimi, adesso beh, lasciami festeggiare questa novità, no, a parte gli scherzi, ci mancherebbe. Predisponiamo tutto, adesso sono più libero, nel senso non ho quella mezz'oretta che mi metteva a ripassare e fare, e possiamo fare tutto quello che vuoi tu, certi tipi di cose, naturalmente non pensate al male perché qua ci sono porcaccioli. Ok, Claudio, cosa dici? Alexa, apri il cancello, così. Allora, apri il cancello, c'è apri il cancello, qua, fai un pappagallo che fa Gianni. Io c'ho anche Alexa. E anch'io ce l'ho, però no. Io ho messo tutto automatico così. E invece apri il cancello che ogni volta mi dice qualcosa. Devo aver sbagliato il codice. No, l'ho insegnato io. Ah, tu sì, no. Ehi, adesso glielo io. Se mi dice non qualcosa, dico Natalino. E se invece mi apre. E cinghiali, visto lì in quelle zone, Claudio. Cinghiali, se devo mangiare io cinghiali. Io e il mio vicino le portiamo tutta la verdura che avanza, capito? Poi lui c'è il compare che è macellaio, quindi quando disossa la carne portiamo a mangiare. Ce l'ho giù, in fondo c'è la scroffa con tutti i maialetti, non si fanno vedere. La notte salgono, ai furugiare la bombetta, la mazza nell'uraria, però di giorno stanno giù. Se hanno da mangiare che gliel'abbiamo messo noi, allora non ci salgono, se no salgano a mangiare, capito? Ma se vedono che gliel'hanno da mangiare, da cudini tutti in chimio. No, non penso proprio. Ce n'è una sola grossa con i maialetti. Piccoli, vabbè, sono già grandi, stanno sfossando tutto giù, infatti è venuto Angelo l'altro giorno, quello che ha costruito l'impresa, ha detto, ma cosa facendo in Oga? La ruspa, ha detto, non cos'è bisogno di cinghiali in Oga? Stanno liberando tutto, stanno portando via tutto il cantiere, che è ancora tutto lì. Cappa cappa. Municiti di fucile. sì. E la diamo ammazza. No, non ammazzi gli animali, no. Io non ho niente. Non mi interessa. Anzi, se ce l'avevo a mangiare, mi dovevo mangiare. Poi ogni tanto scendo giù al canile, perché ce n'è uno privato e uno comunale. Proprio di fronte a me, dopo il mio cancello, lì c'è la strada che va al canile, quello privato. Ogni tanto scendo e le portiamo un sacco di roba con il mio vicino di casa. Vabbè, tu pensa che Emanuela non mangia manco coniglio, non mangia né coniglio né cavallo, niente. E perché l'aria non mangia coniglio, cavallo, mangia solo petto di pollo e buco. Purtroppo è così, vabbè. Cercando di capire qua questo connettore, cosa me lo siete ricombinato, non ho capito cosa hanno combinato qua. va bene. Riprendi roba e fai girare, dai, che sono qua in correzione un attimo. Dai, io riprendo io, dai, e vado, vi saluto cordialmente, buona serata a tutti e grazie per il question. Ciao Gianni, ben sentito, vai qua. Ciao, ciao Gianni, a presto, siamo qua, quando vuoi, siamo qua, qua, qua. Ma chi è rimasto qua, Cla? Io tu, Gianfranco, Mantalino. Dunque è andato a mangiarsi un brodino. Di mammo. Ecco, la taglia lo sembra uscendo con un apparecchio serio, un ICOM che hanno quella modulazione un po' grossa, tipo Alberto Lupo. Perché vorresti dire che il mio superstar non è serio? Sì, certo che è serio, però sembra, se tu non avessi, non sentivo il bip, sembrava un apparecchio radioamatoriale. Ehi, non sono così, no, pirata io no, come te. Siamo tutti pirati qua. Sì, conferma. Oh, yeah, yeah. Aspettate che c'è il cane che vuole il premio. Il premio? Dai, dai, il biscottino. Allora, aspetta che trovare questo microfono un attimo. Oh, ho trovato uno che da 1,60 a Roma, 80 ne vuole. E bene, me lo compri. La propaganda, c'è la fotografia, sembra buono, dice, usato però in buonissimo stato. Guarda, se secondo te è in buono stato, prenotalo subito, si compra. Domani te lo faccio vedere, adesso e passi tu il vostro video. Ma cosa, gli altri, Carlo e compagnia cantante, tutti andati via? Sono andato a preparare la cena. Stai io a farmi vedere. Se secondo te è buono, prendilo, no? Ordinalo. No, tranquilli, a tira e molla, te lo sai, non ci sono problemi. Se ti ho l'autorizzazione, fallo, no? Tanto te lo devo mandare, no? Il problema è quanto ti fanno pagare i trasporti, chi sarà avuto in dura? Devi contattarlo, sei tu che c'hai il computer. Sai che te lo stai comprando tu, no? Lo contatti e dici, ma 80 euro spedito, 80 euro più la spedizione, quant'è la spedizione? E poi vediamo. Sì, 80 più la spedizione, a meno che non vado a Roma a pigliare tiro. No, no, se vado a Roma perdo la poltrona. Ok, lasciamo un attimo in bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare qua su questo piccolo canale 10, avanti. 7 euro sarà, 7 euro quasi 8 euro. Dipende come lo spediscono, se lo mandano via corriere, via posta, sì, se lo mandi via corriere ti chiedono anche 15. E allora secondo che microfono è, ne aggiungi 10, 15, è più di 9. Il discorso, secondo me, mi va a provare qua qualche radioamatore in Sardegna, se si riesce a trovarlo, vale, ti fai 10 km, 100 km o quello che è, però almeno ce l'hai qua vicino e lo provi. Questo è un radioamatore, però molte volte, diciamo, un microfono non è una cosa delicatissima come una radio, però bisogna stare un po' attenti. Non trovi quello che te l'ha toccato. Claudio, poco fa mi ha dato quel nome, ma c'ho qualche dubbio, perché quello non era in via Napoli. Napoli. Ecco, allora, fine via Napoli, per imboccare quasi via Milano, prima dei semafori c'è una stazione radio di un collega, lo stesso, che è tutto di poli, quindi non c'ha antenne direttive. Dice, quando ero ragazzo ci sono andato un paio di volte, quello lì... Mi sa che, che era quello che hai detto tu, perché in effetti era un professore. Ma ti stai confondendo con professor Angelo e con professor Azzurri. Ok. Professor Angelo era professore, adesso mi ricordo dove, mentre professor Azzurri era all'università, era professore universitario. Sono tutti e due professori, però uno è il professor Angelo e l'altro è il professor Azzurri. Uno abita in via Napoli e l'altro abita in via Venezia. Esatto, via Venezia, bravo. Ok, sì, allora i conti tornano, perché sono tutti vicini questi qua. Quindi, e quelli erano veramente vicini. Quando parlava uno sicuramente non parlava l'altro. Non sono già detti, è così comunque. Perché poi dalle parti tue c'era il professor, senator, ingegner, astronomo soprattutto, perché era di luna e sole, quindi. E si conferma, e si conferma. E prendi con Roberto Manzo, sto facendo una prova, un attimo devo provare questo MC50, non ho capito perché non sta funzionando. Robè, il Cappetti Niente? Ancora? Soldatore nulla? No, certo, il cavetto è già pronto. Allora io, l'uscita del 4.40 c'ha un'uscita, la CC2, l'ho messa in attacco RCA. Ho comprato un adattatore da RCA a mini jack, per cui l'uscita, chiamiamola in bassa frequenza, la chiamo io perché è un segnale fisso di 200 mV, quello che va, che utilizzo per fare rilievi, rilevamenti quando mi chiedete controlli, che attacco a un analizzatore di spettro audio e a un indicatore di livello, quello lì lo attacco all'ingresso del coso, del microfono del PC. Anche quello potrebbe andare bene, giusto per fare per averci già pronto nel caso di prova, eccetera. Questo è solo per ricevere. Il discorso è un altro. Io ce l'ho un connettore a 13 poli e c'ho anche il cavo Kenwood originale, però di un multilettore CD, di un caricatore CD che c'ha una marea di fili dentro, ci avrà 15 fili. E se tu c'hai voglia e tempo, naturalmente non voglio fare lo scroccone, te lo faccio avere tramite qualche amico, ci diamo appuntamento da qualche parte. Se ti vuoi divertire e me lo cabli già tu, mi fai anche un grande favore, naturalmente pagando il disturbo. No, guarda, chi mi conosce sa che per principio, a parte quando non siamo apparati grandi, io non faccio mai pagare niente, non faccio il commerciante, ecco. Posso vendere una radio e farla pagare ovviamente, così come la posso anche regalare, ma a pagamento non faccio niente. E guarda, purtroppo quello lì, di cui stiamo parlando, la CC, cioè contatti talmente accostati che causa a vista qualche problemino me lo potrebbero dare, quindi non è tanto il problema di farlo, è il problema di riuscire a farlo, capito? Già lo so, io la vista, grazie a Dio, facendo le connette ce l'ho ottima, vedo benissimo da vicino, da lontano, diciamo, c'ho 8-10, ma da vicino perfettamente, non ho problemi di vista, però il problema, avevo manualità per fare quel tipo di soldature e io sinceramente manualità non ne ho più che tanto, perché devi soldare un pin tranquillo, un connettore semplice, ma di lì, come hai detto, sono molto vicini e non è... ci vuole un po' di manualità, se no faccio una soldatura sporca e non mi piace. Lo so, però purtroppo è così. Io invece ci vedo benissimo da lontano, sono un cannocchiale, però da vicino ho sempre difficoltà. Per il servizio ho anche passato la visita, mi hanno anche rimproverato, mi hanno detto ma si stia zitto, a quell'età cosa pretende, non ho capito, cioè abbiamo gente di 40 anni che non vede da vicino da lontano, lei da lontano ci vede benissimo. Vabbè, se dicono così loro. Ma tu più del dottore ne vuoi sapere? Mi ha professor Golia, come ti chiami? Cirimello si chiama. Ah, te l'immagini questo Gianfranco, più del dottore ne vuole sapere. Dimmi una cosa, parlando di nominativi, Gianfra, può anche rispondere Claudio, un nominativo Italia 0 eccetera eccetera, barrato IS0, cosa significa? Che gli hanno cambiato il nominativo o che cosa? No, che in visita. Che in visita è un'altra stazione. No, è in visita qua. Tanto per dire, uno può essere un Italia 3 e quando dice barrato IS0 vuol dire che non è nella sua città, è qua in Sardegna. No, che quello che è l'IS0 è il suo nominativo in Sardegna, Italia 0 è Lazio. Ehi, allora uno è Italia 3 per esempio, per non confonderci. Quando dice Italia 3 biribiribirivà, barrato IS0, vuol dire che lui è qua in Sardegna, non è in Veneto. Ehi, ok, ma questo che sto dicendo io è Italia 0 eccetera eccetera, barrato IS0, lui come coso nominativo è del Lazio, può essere di Roma, Viterbo eccetera eccetera, che è qua in Sardegna, nella stazione che trasmette, no, ma neanche così, perché se sei in albergo in Sardegna dici barratto M mobile oppure barratto l'altro come cambia, come se sei in movimento, uno è in movimento oppure se sei in una trattazione, adesso mi viene il nome. Barrado De Veglia. Barrado. Barrado. Allora, io un giorno ho sentito un radioamatore, no? Da ridere, io non so dove abbia studiato, forse ha trovato la patente nel fossino del Dash, capito? Dove sei? Barrato a piedi. Chi ha detto? Vediamo qua se c'è qualcuno su questo canale. Attenzione, 10 che vuole entrare. Deve essere anche Barrato Zoppo. Infatti. E così cantava la canzone Mi manca si stampella. Ma come ci fa, cazzo? Ma come ci fa? Vabbè. Comunque, quando uno, soprattutto l'estate, senti queste cose, perché per esempio Italia 4, Golfo, Yankee Zulu, Barrato, ISR, ok, tu dici, dove sei? In casa una sede della ISR, lui te lo dice, sono in provincia di Oristano, in ferie, sono in provincia di Cagliari, sono ad Alghero in ferie, è per quello che devono obbligatoriamente dire la zona della la regione in cui ti trovi, capito? In questo caso la Sardegna, ISR, quindi loro dicono Barrato ISR, devi per forza aggiungerlo. Ciao Carlo, buonasera, a te il microfono. Io mi sono pulito adesso le mani dalla farina e ho messo tutto al forno. E cosa ci stai preparando di buono? Ora, petti di pollo impanati e poi li ho appena scottati con un poco burro, alloro, origano, un po' di sale e poi sfumati col vino bianco. Poi li sistemi in una teglietta, li metti 20 minuti al forno già caldo, fanno un po' di croccantino e sono ottimi. Ecco, tutti i cuochi provetti siete, l'unico zogoeo qua, proprio la cucina è nine per me, zero assoluto. Qua se non cucino io non si mangia. Stanotte mia moglie è rientrata da poco, era ai consigli di classe fino a 20 minuti fa, quindi se no si mangia le calende greche. Sì, anche Claudio è cuoco provetto, bravissimo. E Natalino sarà la stessa cosa perché è nato pasticcere. Io ho fatto la cosa con i pigilli, ne ho mangiato anche per stanotte, però è troppo pesante. Buonissimo a pranzo, mia moglie lo sa, a me, sai come mi chiama mia moglie, Carlo? Antonino. Come il cuoco? Allora, c'è niente da fare, neanche mia figlia è molto brava a cucinare, vabbè gli ha fatto l'alberghiere, però io l'ero mattana forte, sì, anche Natalino è bravo in cucina. Vai Natalino. Scusate, sto saldando, se mi saldo le dita. Gianfranco invece, come me, trova già pronto. No, io devo cucinare tutto. A prescindere dagli orari, faccio anche quello, tra le tante cose. Quindi anche tu sei cuoco provetto. Sì, cuoco provetto è una parola grossa. Diciamo che comunque so cucinare. Cucino da tanti anni, mi arrangio. E si accampa. No, io sono come Eugenio, io ho detto la mia specialità è l'uovo fritto e devo stare attento quando lo apro che non me lo spacco prima il tuorlo. E coso, Eugenio ha detto che la sua specialità è il panino con la Nutella. Per molti anche solo mangiare. Ma mangia a mangiare, non sono carnivoro, io carne zero, quasi niente, posso mangiare oggi un pezzo di salsiccione, l'ho mangiato, ma deve essere ben cotto, proprio rosso, fatto bene, poi c'era la pasta fatta alla campidanese con il pezzettino di salsiccione fresco messo in mezzo nel sugo, eccetera, quello è già rimasto. Posso mangiare qualche pezzo di pollo, qualche coscia di pollo ben cotta, ma tutto il resto delle carni, zero, proprio, magari ti vedo bello il profumo, la pancetta, il rosso, però non ne mangio di quelle cose lì. Pesce mangio tutto, l'unica forza che non mangio sono i serpenti, il grongo, la murena, quelle cose lì, non è che non le mangio, ma non mi attirano, ma tutto il resto puoi farmi mangiare tutto, dalla razza, dalla platypus, dal gamberi, aragoste, polpi, seppie, qualunque cosa, non parliamo di pesci, di orate, saraghi, detici, quello mangio tutto. Quindi sei quasi un termometro, dai. Tutto il mercurio che c'è in giro. Riprendi Carlo, buonasera. Buonasera Gianfra, ma l'astronomo che dicevi è quello che c'ha l'osservatorio? No, l'altro uomo che dicevo era uno che conosciamo, io e Claudio, che ne stavo parlando anche prima, un vecchio collega di radio, quindi l'abbiamo ricordato un po', perché adesso sicuramente è molto molto anziano. Quello Angius secondo me è uno dei più anziani, perché da quando ero bambino lo conosco qua. Cabizza, ex insegnante, esperto di astronomia, si è fatto l'osservatorio astronomico dentro casa, lui c'ha una casa privata, ci sono salito pure a vederlo con la bottola che si apre, tutto in ferro, siccome lui è ingegnere, quindi si è fatto tutto da solo, si può dire, anche le saldature, una cosa favolosa a vederla. Ce ne sono tanti di appassionati di un po' tutte le cose. Il problema è che uno pensa che quando si diventa, tra virgolette, grandi, ci sia solo perché magari uno in pensione abbia tanto, tanto tempo, e poi arriva lo shock che invece c'è tante cose da fare, anzi, lavori anche più di prima. Ma di osservatori io ne ho visto due, ce n'è uno nella strada di Bancali, bello, e uno nella strada di Usilo, lo stesso, due belle cupole che si aprono, rotanti, belle. Riprendi che forse ci siamo un po' sovrammodulati e non ho copiato. Ho detto che di osservatori parliamo privati, e ce ne sono due molto imponenti, diciamo, naturalmente per un uso privato, per me sono imponenti, ma per uso di professionale fanno ridere. Uno nella strada di Bancali all'inizio, passando dove c'è la centrale elettrica, e poi ce n'è un altro qua nella strada di Usilo a Serrasecca. Esatto, è quello lì ho visitato. No, io sono un appassionato, diciamo, a livello proprio passione, non parliamo di cose agonistiche e di astronomia, c'ero un, diciamo, a livello amatoriale un coso, un riflettore, un telescopio riflettore, rifrattore. Da piccolino mi è sempre piaciuto, una cosa, però vedo amici, gente che lo fanno, non dico per professione, ma a livelli molto molto evoluti, c'hanno dell'associazione, eccetera eccetera, si mettono d'accordo, vanno in certi posti, eccetera eccetera, e c'hanno delle belle strumentazioni, degli apparecchi. Esatto, perché lì quel campo è molto vasto e apparecchiature ce ne sono anche di molto costose, e la passione è così, inizi piano piano e poi alla fine ci spendi anche un sacco di soldi. Assolutamente, ma è come iniziare con un baracchino e poi ti prendi un chevodo da 4-5 mila euro e così di lì, e di lì sono apparecchi che costano anche centinaia di migliaia di euro e anche di più secondo cosa ti devi mettere, però un apparecchio per iniziare può costare 200-300 euro, poi piano piano ti prendi con le lenti calibrate, con dimensioni più larghe, di focale, eccetera eccetera, è una passione come può essere questa nostra per la radio, e quelli li spendono in altre cose, magari non se ne vanno al bar con gli amici, conservano i soldi e si comprano quegli strumenti. Sì, è vero, uno molto bello c'è a Coso, a Siligo, l'osservatorio astronomico di Siligo, e anni fa l'avevano aperto al pubblico, ovviamente prima della pandemia, no? E facevano la notte di stelle eccetera, quindi c'era andato in quell'occasione, c'era anche da mangiare, da bere, e quindi era stata una bella serata per chi ha quella passione, ovviamente. Sì, bello, anche Olmedo ce n'è uno, c'è l'associazione degli astronomi di Olmedo. E tu Gianfra, cosa dici? No, c'ho anch'io un coso di uno, come si chiama? Un telescopio, c'ha tante lenti intercambiabili per avere le varie grandezze. Grandetto, dai. Solo che da qua nonostante non ho mai provato, perché è sempre sotto nel cavedio ed è molto faticoso, anche perché c'è una centratura veramente, secondo la lente che metti, mezzo millimetro già ti stai spostando da un'altra parte. Poi c'è il treppiede, deve essere ben fermato, insomma. È una una cosa che mi piace, però no, non è agli altri livelli, non posso fare tante cose contemporaneamente. Ho lasciato un po' da parte, infatti purtroppo in questi ultimi mesi la bici mi manca tantissimo, perché ho dovuto fare tanti lavori, quindi è così, troppo poco tempo, dovremmo lavorare anche di notte, guarda. Non penso che sia peggio di me, no, io ce l'ho, non dico eccellente, ma per iniziare con i puntatori, no, se ti devi guardare la stella, devi cercare una stella in particolare e te ne basta la gara, a meno che non c'è un motorizzato o computerizzato, che con quello sei facilitato, se no ti guardi cose visibili abbastanza grandi, se no basta un millesimo di grado e va via, ci vuole il puntatore, cerchi un po' di arrangiarti, vedi, la luna ti diverti perché la vedi e te la punti, ma se vai a cercare una stella in particolare, per dire anche quella luminosa, per dire Venere, Mercurio, no, stelle, pianeti, in questo caso, non è che la vedi, un bel dirigente come te punta a dire, cazzo, domani, già pur seguendo le cose, le stelle cadenti, se non la segui la perde, talmente sono, le focali sono ristrette, sono lunghe, per cui la centratura è talmente, lo saprai anche tu, non c'è bisogno di dire, no, io nel mio piccolino leggermente appassionato, non la sto curando perché qua c'è inquinamento luminoso, te ne devi andare in un posto al buio, un paio di volte l'ho portato, dai, mi sono sempre promesso ogni anno, devo andare e poi alla fine non vado mai, soprattutto l'estate che c'è più pulizia eccetera, divenno con l'inquinamento sia luminoso che nuvoloso e brina eccetera eccetera, non fa tanto, però è una cosa che mi è piccolino, mi ero appassionato tanto, mi ho preso anche i libri, enciclopedie, ce ne ho tante di cose del genere, e poi purtroppo io sono curante di tante cose, di troppe cose, la giornata mia dovrebbe essere minimo di 48 ore, oltre alla radio ne ho tantissime di passioni e purtroppo i tempi sono quelle, perché devi anche lavorare, molte volte il lavoro ti butta anche giù dalla fatica e non hai voglia di fare nulla, però ce l'ho già da penso almeno 15 anni quel telescopio che ho io, sempre con tutti i cosi, non è motorizzato, c'era anche motorizzato, però alla fine ha detto, ma per quel poco che lo uso spendere soldi non faceva, perché l'ho preso semplice, dai, di nuovo a te Carlo e poi Gianfranco. Gente mala, e Antonio Capa, buonasera a tutti, buonasera, dai. Io vado a mangiare se entro dopo, ok? Ehi, adesso siamo ancora qua. Salutate Antonio, avanti prima Gianfranco e poi Carlo. Sì, non so se tocca a me, c'è Antonio, buonasera e buona cena. A te Carlo. Buonasera Antonio, ben arrivato in 27 CB. Mi, quattro chiacchiere mentre si cucina e si fa altro, chi salda, chi cucina, e parlando di osservatori astronomici e binocoli e cose varie. Cappa, dai, io vado a mangiare, dai. Io ci sono tanti anni in frequenza. Ah, tu mi arrivi fortissimo, ma dove sei Carlo? Sono a Luna e Sole, zona bowling, per capirci. Ah, cosa hai fatto? Mi stai arrivando quanto Roberto? Ho fatto niente, ho invertito l'antenna una settimana fa e sentendo un po' di consigli l'ho girata, prima era in orizzontale, adesso l'ho messa in verticale e riesco ad arrivare bene dappertutto. Cappa! E cavolo, sei quasi 9.40, c'è lo stesso segnale di Roberto, sei fortissimo, sei. Non so che antenna stai usando, ma sei un bel forte qua. Antenna piuttosto modesta, Sirio SD27, presa una ventina d'anni fa, mai utilizzata, sballata e conservata, perché prima ne avevo altre, questa non l'avevo mai messa e l'avevo giusto portata quando mi ero trasferito e ce l'avevo sempre giù in garage. Quest'anno mi sono messo di proposito e ho detto voglio fare una piccola stazioncina, giusto fare quattro chiacchiere, però già sta andando bene. Cappa, sei fortissimo qua, mi arrivi un bel forte, c'è quasi lo stesso segnale Roberto. Ok, dai, ce la risentiamo, come ti arrivo io in quelle zone, forte? Qua a fondo scala, io ti sento bene, radio 4, Santiago 9 più 5. Cappa, dai. Dai, io vado a mangiare, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, vai a mangiare, vai, se no ti si raffredda. Hai detto, scusa Carlo, stavo ascoltando, ti arriva a fondo scala 9 più 5, non capisco la luce. Ecco, i picchi mi arriva a fondo scala. Ma tu c'hai a lago o a lucette? Io sono a lucette, quindi non è che lo posso dare tanto preciso. Tu praticamente mi vibra tutto, tu Claudio qua vi sento a bomba proprio. Sì, vabbè, siamo abbastanza vicini, lui è un po' più in basso, comunque Antonio già si fa ascoltare. È stato Claudio, ho visto, e già fra, ma tu fai anche fotografie astronomiche. Già Franco si è allontanato, vai Claudio. Ehi, ehi, saluto Antonio, buonasera, ben ascoltato. E tu sei... Oh Carlo, ho lo stesso segnale di Roberto. Poco più, poco meno, siete di tutte e due. Va bene, va bene. KK, qua stavo dicendo una cosa, non mi ricordo. E tu, Robè, perché ce l'hai ancora quell'impianto a parabola? Una ce l'hai sempre collegata. Ma io ne ho tre parabole, non... E ce le hai sempre collegate con le parabole? Beh, certo che sì. Ah, vedi? Tu sei molto avvantaggiato per il sistema satellitare allora. Io mi sono sentito con Marco, già mi dà delle dritte lui. E tu da una parola, io ne ho due motorizzate e una fissa. E lui mi ha detto che dove è puntata quella là c'è questo satellite dove fa tutte le operazioni lui. Vabbè, Marco in queste cose è abbastanza preparato. Va bene, va bene. Avanti Gianfranco, ci ho ripreso tu Carlo. Sì, ero distratto in realtà perché sto anche seguendo un QSO in 160, però c'è molto QRM, mannaggia, un periodo veramente che forse dovrei ripulire un po', ma è cosa proprio di preoccupazione mi sa. Allora, direi i passaggi sono di mezz'ora, una cosa del genere. Qui fanno proprio, sono spettacolari, in 160 metri. Riprendi Carlo. I collegamenti con i satelliti radioamatoriali, state dicendo? No, in onde corte, in onde corte. Io sono micidiali. Vabbè, sono tutti anziani, poi sono anche in pochi perché l'antenna vuole molto lunga, potenze grosse perché sennò non ti sento. Però, Robè, passaggio questo da, forse saranno già 40 minuti. Vabbè, dici, come hai detto tu ci vogliono antenne grandi, sinceramente già ce ne sono altre di frequenza per ascoltare o anche per farsi sentire, sono cacchio, ci vogliono antenne enormi, accordatore, se no non fai nulla, è come hai detto tu, i bombe di potenza. Ah, adesso lo posso mettere di 160 metri, non metto neanche le altre, io riporto a mettere di 160 adesso. Io ne ho due da 80 metri, figurati. Ehi qua, dall'inizio del cancello, dove c'era manco, ma arrivare giù a 80 metri, sono nel 150, sono 200, buh. Ci apparirò il metro. Aspetta, sto regolando sto microfono, non riesco a... Eccolo qua, Antonio nei piedi, va bene, lasciamo stare così. Questa cos'è qua? Questo è il 430 con la mantova, però l'altra poco fa sto mandando 140 con la GIPO. No, sto parlando di microfono. Questa è la Lumis. Ah, no, pensavo fosse il 757 qua. No, aspetta, 757, che è il 430 con la Lumis. No, già spinge, già è bella piena la modulazione. Ok, ma hai messo quel tappo sopra? Il tappo... Sì, non è verde, ma è brutto, l'ho lasciato originale. Hai rovinato il microfono, l'ho usato tu io. No, non ho toccato niente, mica l'ho fatto così largo per infilarlo, non ho fatto assolutamente niente. È rimasto originale, quello era un tappo che c'era vero, non mi ricordo, dal cassetto, forse era a coprire qualche microfono, era brutto, gli avevo messo quello, capito? E l'ho allargato. pagato per entrare in questo qua che è più largo, ma no, non ho fatto niente, non ho toccato niente a questo. No, pensavo che avessi tagliato un microfono, la testata per farlo, quindi era un tappo così vuoto. Ah, dico, era vuoto. È vuoto per quello, per infilare dentro quello originale, che è leggermente più piccolo. Non ma così faccio un microfono. Sento tanto euro il microfono, allora. Ma non ci facendo altro per faccio tanto euro mio. Adonis, Adonis, la tomba che i soldi già l'hai avuto. Quelli dell'Ava, ormai, come si chiama, quelli costano un centinaio di euro, 90 euro. Questo è Adonis Adonis, c'ha due uscite, c'ha un bel microfono. KK e KK, avanti Carletto, aspetta che... No, incoraggiamento la potenza, eccola qua. Stavo andando con 8 watt, adesso ho messo a 15 watt. Temi, mi hai un po' influenzato con la questione J-Paul 27, anche se un po' lunghetta, ma la prossima mi sa che sarà quella la mia scelta, se voglio diciamo guadagnare qualcosa. Aspetta, c'è un abisso tra la mantra e questa. Me ne arrivata un'altra, me ne arrivata proprio oggi alle 5. L'ho fatto vedere la voce, l'ho sballata, controllata tutto, già ho avvisato il venditore che sta a posto, c'è tutto, capito? Quindi ne ho un'altra, se serve a qualcuno ne ho un'altra, 20 euro in meno praticamente. Bene, Meda, ascoltami una cosa, ma quando la devi montare per tutti i suoi 8 metri c'è bisogno di una superficie ovviamente lunga almeno 10 metri, immagino. Cosa vuol dire superficie? No, fammi capire, no, l'antenna è una verticale come tutte le altre. Lo stubo centrale, lo stubo centrale è da 8,50 m, poi a fianco c'è quello da 2,50 m, non ha nessun sostegno, niente. Però quando ovviamente arriva smontata, la devi montare, no? Hai bisogno di un piano per metterti a fare questo lavoro, c'è bisogno di una superficie molto ampia. In terra mi sono messo io sotto la veranda, ho 15 metri di veranda, 18 metri di veranda, tutta in marmo, in granito, quindi no, non c'è problema, mi sono messo lì nel punito in terra, piano piano assemblavo, chiudevo, poi da lì l'ho spostata nel giardino, l'ho messa dritta e l'ho accordata, una volta accordata poi l'ho messa sul palo. Capito, ma è molto pesante da sollevare. 7 kg pesa l'antenna montata, tutta intera, 7 kg, con una mano l'ho messa dentro la staffa. Quindi voglio capire queste cose così per poter organizzarmi, magari se riesco a fare tutto da solo o se ho bisogno di aiuto nel caso. Se hai bisogno di aiuto, fai un fischio, non c'è problema. Io se l'ho messo a servire a te o a chiunque, gli avevo già con lo stubo già pronta, solo da inserire, perché ci sta in macchina intanto. Capito? Solo da inserire l'elemento centrale, l'avevo già pronta, già montata, diciamo, capito? Gliela assemblo io e se la porta via già così, quando arriva a casa poi non fa altro che inserire il centrale, ok, perché io le lascio solo i due metri e 2 metri della, quindi ci sta tranquillamente in macchina. Ci sta tranquillamente in macchina perché non ha radiale, già pronta, accordata tutto. Una volta che lui arriva a casa non fa altro che inserire l'elemento centrale, mettere le fascette, le vittine e l'antenna montata. Capito, al limite ne parliamo uno di questi giorni, nel caso ci mettiamo d'accordo, ci vediamo e la prendo. Non c'è problema, guarda, la carta sera alle 5, infatti prima che facessi il buio l'ho sballata tutto, l'ho già messa già conservata, se serve a qualcuno me lo fate sapere. Il prezzo suo, a me, è 160 euro. Se invece vai a benevolare a lui, 180 più 20 di trasporto. Oh, scusatemi un attimo. Ehi, vabbè. Devo allontanare, ci sentiamo dopo, dai. Scusatemi un pochettino. Ciao Carlo e ciao Claudio e eventuali amici, dai. Vengo tra un pochettino, mangio qualcosina e poi arrivo. Ehi, che avanti Gianfranco. Ah, ciao Gianfranco pure, ci sentiamo tra un po'. Sì, mi ero allontanato un attimino. Avete detto? Avete detto? No, ma avete rilanciato. No, che cosa? Una pietra, ti posso lanciare io da qua, ma non ti prendo. Sì, perché non c'è forza, tocco una bella catapulta. Ci conferma. Sì, caro, quando vuoi. Io un'altra me l'ho fatta mandare perché ci sono delle richieste, ce la diamo. Se do questa me ne faccio mandare magari altre due. Non c'è problema, se si fila molto di me e si arrangia con me. Non c'è problema, capito? Mi ha detto che di vedere io, insomma, di, come si dice, di pubblicizzarla. Io l'ho già pubblicizzata, posso dire che è un'antenna eccezionale, superiore alla mantola, è una 7 ottavi, non hai problemi di altezza, Carlo, la puoi montare. Questa, se ti leggi il manuale, va da un metro dalla superficie di terra sino a 30 metri. Io ce l'ho a 4 metri, figurati tu. Ho capito. Mi fa un po' paura, diciamo, la questione vento, perché dove ho l'antenna io tira parecchio. Figurati dove sono io, che sono più alto di te, è più aperto di te ai venti e a tutto. Non, se no se non me ne ha creato anche quella mezza latta che c'era l'altro giorno, pioggia, vento, non ho bisogno di essere manco isolata, capito? Perché l'acqua scende direttamente dentro il tubo e va via, non fa danno come fa la mantova se non la isoli, no, assolutamente. Poi chi la vuole isolare la isola, ma il venditore maestro non c'è bisogno di isolarla.